gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. Love Italy, yeah. I love Italy. Don Andy Mangiarati su Radio Miami. Esattamente, I Love Italy. Benvenuti a tutti sulla Double RMI, Radio Miami International. Siete all'ascolto di I Love Italy, i nostri 15 minuti in lingua italiana con il vostro Andrea Mangiarotti al microfono. In apertura, come sempre, colgo l'occasione di salutare tutti gli amici e tutte le amiche che ci hanno ascoltato in questi mesi, insomma, in questi bellissimi mesi di riflessione, ma anche di programmazione qua sulla WRMI. Tanto per mantenere viva sulle onde corte, insomma, questa testimonianza storica della nostra bella lingua italiana che purtroppo piano piano va sempre più scomparendo dall'etere. Però noi siamo qua, ci siamo con immenso piacere. Il mio ringraziamento va come sempre all'editore della Double RMI Radio Miami International, quindi i ringraziamenti vanno a Jeff White, il nostro editore, che ci permette per l'appunto di essere qua in questo piccolo spazio, però fondamentale, con Andrea Mangiarotti, soprattutto questo spazio dedicato all'Italia, alla nostra bella nazione. Come faccio sempre in apertura, i miei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno ascoltato nelle precedenti puntate e chi mi vorrà supportare e anche ascoltare su Radio Miami. Ci potete sentire, vi ricordo, sulle onde corte, sui 7780 kHz, pari a metri 41, sui 5950 kHz, pari a metri 49, e sulla banda tropicale dei 9955 kHz, quindi pari a metri 31, la banda per il Latino America. Un saluto a tutti i nostri immigrati italiani negli Stati Uniti, ai giovani che in questi anni sono per l'appunto emigrati negli Stati Uniti, in Latino America e un po' in tutto il mondo per mettere a disposizione di queste grandi nazioni le proprie conoscenze, la propria cultura, la propria laurea, come si suol dire. Un abbraccio come sempre al mio caro cugino Carlo e alla sua compagna Raffaella. Carlo vive a Houston nel Texas ed è un ingegnere, quindi un abbraccio a caro Carlo che vive in questa bella nazione che è per l'appunto gli Stati Uniti d'America. In apertura, come sempre, come facciamo, come di consueto, ricordiamo i contatti, i riferimenti. Per entrare in connessione con questa trasmissione abbiamo la nostra mail classica andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo da poco introdotto anche il numero per gli SMS, soprattutto per gli WhatsApp, 377 45 630 33, 377 45 630 33, solo messaggi WhatsApp. E se invece adorate scrivere, vi piace scrivere, potete direttamente anche scrivere una bella lettera in formato cartaceo oppure una cartolina alla radio che ci ospita, per l'appunto la Double RMI, Radio Miami International, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Apriamo quest'oggi la trasmissione facendo un quadro generale, come viene fatto un po' in tutto il mondo, sulla situazione coronavirus Covid-19 in Italia. La situazione in Italia è decisamente migliorata se si pensa al periodo di aprile, marzo-aprile, dove purtroppo abbiamo avuto veramente tante vittime, tante persone ci hanno lasciato per questo maledetto coronavirus. Ora la situazione è molto migliorata, si torna ancora in spiaggia, quindi se avete l'opportunità di venire in Italia con le giuste cautele, probabilmente verrete messi in quarantena, però se per lavoro lavorate magari negli Stati Uniti e dovete per forza venire in Italia, vi tranquillizziamo, la situazione è molto migliorata, gli ospedali non sono più saturi, le terapie intensive si sono svuotate, l'importante è mantenere sempre i vari regolamenti dettati dallo Stato italiano, mascherina in primis, avere una distanza di circa un metro e mezzo tra una persona e l'altra, evitare i luoghi affollati, se proprio non si può fare a meno di andare in luoghi affollati, mi raccomando, sempre la mascherina. Questo è quello che riguarda per l'appunto il Covid-19. In questi mesi purtroppo ci ha lasciato un grande italiano, un grandissimo compositore, musicista, direttore d'orchestra e così via. Sto parlando di Ennio Morricone, che anche lui purtroppo, ahimè, ci ha lasciato. Con una formazione da trombettista ha scritto le musiche più belle dei cinema italiani e anche internazionali. Pensate, più di 500 film e serie TV, opere di musica contemporanea. La sua carriera include un'ampia gamma di generi che fanno di lui uno dei maestri più versatili, influenti compositori di colonne sonore di tutti i tempi. Le musiche di Morricone sono state usate in più di 60 film vincitori di premi, pensate un pochino. Dal 1946 ad oggi ha composto più di 100 brani classici, ma ciò che ha dato fama mondiale ovviamente al maestro Morricone non potevano che essere le musiche prodotte per il genere western all'italiana, il cosiddetto spaghetti western, che lo portarono a collaborare con registi di primissimo ordine: Sergio Leone, Duccio Tessari, Sergio Corbucci, con titoli del genere tipo la trilogia del Dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti, Il meraviglioso C'era una volta in West, Il grande silenzio, Il mercenario, Giù la testa, Il mio nome nessuno, eccetera eccetera. Dagli anni 70 Morricone è diventato un nome di rilievo anche nel cinema a stelle e strisce, nel cinema hollywoodiano, componendo musiche, pensate un pochino, per registi americani del calibro di John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nicholson, Oliver Stone, Quentin Tarantino. Pensate qua, Morricone scrisse le musiche più belle per numerose pellicole premiate addirittura con l'Academy Awards, come I giorni del cielo, Missing, Gli intoccabili, Nuovo cinema paradiso, C'era una volta in America e così via. Dal 2007 Ennio Morricone è diventato anche è stato nominato con un Oscar alla carriera. Tutto questo ci fa capire la grandezza di questo grande maestro, di questo grande compositore italiano che purtroppo ci ha lasciato di recente. Dopo essere stato nominato per ben 5 volte tra il 79 e il 2001 senza aver raggiunto il traguardo dell'Oscar, nel 2007 vince meritatamente il premio Oscar alla carriera. E poi ancora nel 2016 gli è stata attribuita la stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame, quindi anche lui, a mio avviso, in modo meritato ha la sua stellina veramente a Hollywood. E poi nel 2016 ottiene il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Orphan Hate, per la quale si è aggiudicato anche un Golden Globe, eccetera, eccetera. Un palmarès meraviglioso. pellicole di primo piano, ma anche pellicole magari di nicchia che non tutti conoscono. Insomma, Morricone ha, a mio avviso, attraversato la carriera musicale mondiale, passando da un genere all'altro, collaborando anche con la televisione italiana, con la Rai negli anni 50, sto parlando del 58-60 e così via. Purtroppo ci ha lasciato anche lui. E allora noi cosa facciamo? Lo ricordiamo. Anzitutto vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato questa bella puntata di I Love Italy su Double RMI. A Dio piacendo, noi ci sentiamo prossimamente. E questo è il nostro omaggio a Ennio Morricone. Lo riascoltiamo con la colonna sonora di Giù la testa. Grazie a Jeff White per lo spazio. A tutti voi un abbraccio da Andy Mangiarotti, il maestro Ennio Morricone. Noi lo ricordiamo così: Giù la testa. Show.